Europa 24. Ancora buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, nell'anno della sua crisi peggiore, l'euro si allarga. La Lituania infatti sarà il 19esimo stato ad entrare appunto nella zona euro, cioè a utilizzare l'euro nella sua vita quotidiana. Cadrà dal 1 gennaio 2015 per Vilnius, dunque strada spianata con l'accordo dell'esecutivo comunitario. E a proposito di strade invece molto complesse, restano quelle sul fronte orientale, appunto tra Ucraina, la Russia e le tensioni legate a questa crisi drammatica. Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, in visita di fatto ora a Bruxelles, dopo essere passato per Varsavia, parla di libertà e dice: la libertà non è garantita in Europa. Ogni partner della NATO, dice questa mattina al presidente degli Stati Uniti, sarà protetto, e li cita uno per uno, dice la Polonia, ma non solo, la Lituania, di cui abbiamo appena parlato, la Lettonia, la Romania, insomma, i paesi dell'Unione Europea lungo il fronte orientale. Intanto si prepara per questa sera un G7, per la prima volta da tanto tempo, appunto 7 e non 8, con la presenza della Russia. Per la prima volta da 15 anni i paesi più industrializzati del mondo si riuniranno senza la Russia. Il gruppo dei grandi torna a essere il G7, non il G8, in reazione alle interferenze ritenute tali della Russia nella vicenda ucraina. I capi di Stato e di Governo si vedranno qui a Bruxelles boicottando la riunione che doveva in origine svolgersi proprio in Russia. Si parlerà della situazione internazionale, soprattutto in Ucraina, Siria e Libia, dello stato di salute dell'economia, di energia, clima e sviluppo. Decisioni radicali non sono attese. Probabile è un nuovo avvertimento alla Russia perché riveda la sua posizione in Ucraina. Mosca ha spostato le sue truppe dalla frontiera con il vicino occidentale, ma ha preso nei fatti possesso della penisola della Crimea. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 24 ore, Bruxelles, è successo qualcosa, sorride in regia, succede. Parliamo del PIL dell'Eurozona, cresce dello 0,2% nel primo trimestre 2014, con un balzo dello 0,9% sull'anno, ma il risultato purtroppo è negativo per quello che riguarda l'Italia, l'unico dei grandi paesi ancora in territorio negativo, 0,1% in meno, quindi meno 0,1%, con una Germania che continua a trainare l'Eurozona con 0,8%, bene la Spagna 0,4%, Francia al palo. Tra i temi di questi giorni il post elezioni, dunque per il Parlamento europeo, e naturalmente le decisioni sul futuro. Il tedesco della CSU Manfred Weber è stato eletto questa mattina nuovo capogruppo del PPE all'Europarlamento. Il PPE, come sapete, è il principale dei partiti rappresentati nell'Europarlamento, ha ottenuto 190 voti su 194 rappresentati, ha anche colto l'occasione per ribadire la posizione del gruppo europeo dei popolari a sostegno della candidatura di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione. Tutto questo mentre circolavano voci che raccontavano appunto di un'ipotesi di una possibile candidatura tedesca in favore di Madame Lagarde. Sentiamo. Un nome, quello del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde alla presidenza della Commissione Europea, che sembra più una provocazione che una possibilità. Sembra da indiscrezioni che a pensarci sia stata la cancelliera tedesca Merkel e che lo abbia proposto al presidente francese Hollande in una telefonata. Notizie che vengono smentite e poi confermate, ma che di fatto raccontano bene il clima della vigilia. Scegliere il presidente spetterebbe infatti ai popolari, che hanno ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni europee. Il nome da loro proposto è quello dell'ex presidente dell'Eurogruppo Juncker, che però sta incontrando forte opposizione anche all'interno del partito stesso e fuori. La Lagarde, per contro, è poco amata dai paesi sui quali la Troika ha picchiato duro in questi ultimi anni e non può essere sostenuta da Hollande. Sul passato della Lagarde c'è infatti un ruolo da ministro delle finanze di Nicolas Sarkozy, che non piace ai socialisti francesi, usciti con le ossa rotte da questa tornata elettorale. Il dibattito vero ruota comunque per ora attorno al candidato del. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24, che ci scusiamo per questi piccoli problemi tecnici. L'appuntamento naturalmente con l'Europa questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.